Gli stivali magici. L'altro giorno un disco volante in arrivo da Marte volteggiava sulla fattoria di Timothy. Spaventò a morte i maiali e fece inacidire il latte alle mucche. Indignato, il babbo di Timothy uscì dalla stalla gridando: «Andatevene o chiamo la polizia!» E con sua grande sorpresa il trucco funzionò. Si sa che i marziani sono bravissimi nel costruire macchine che li portano a velocità supersonica attraverso l'universo, ma basta chiamare un poliziotto che scappano via come cavallette. Timothy rimase lì a bocca aperta mentre il disco volante spariva oltre la collina. Non aveva mai visto niente che volasse così in fretta. Un attimo prima il disco volante con a bordo i marziani era lì e un attimo dopo era sparito. Poi Timothy vide un bellissimo paio di stivali da pescatore che galleggiavano nello stagno. «Devono essere caduti per sbaglio dal disco volante e mi sembrano proprio della mia misura», pensò. «Che fortuna!» Ma Timothy non sapeva che quegli stivali da pescatore non erano normali stivali da pescatore come quelli che si comprano sulla terra. Si sedette sull'orlo dello stagno e si li infilò. Si alzò in piedi e, con sua grande sorpresa, cominciò a balzare di qua e di là. Poi fece un passo. Purtroppo Timothy non aveva letto le istruzioni stampate sugli stivali, così almeno avrebbe visto che erano stivali fatti per andare sulla Luna dal pianeta Terra. Dovete sapere che un passo lunare è molto, molto più lungo di uno terrestre. Timothy, stupefatto, si trovò in cima al campanile, aggrappato alla lancetta dell'orologio. Il poliziotto Smith, che stava arrivando in bicicletta, non credeva ai propri occhi. «Vieni giù subito, vieni giù, hai capito?» ordinò a Timothy. «Non posso! Sono incastrato!» Il poliziotto tirò fuori il suo libricino e scrisse: «Ragazzino discolo e impertinente gioca con l'orologio del campanile». Ora, se vi è capitato di rimanere incastrati fra le lancette di un orologio da campanile, capirete come doveva sentirsi Timothy. Una piccola folla si era raggruppata davanti alla chiesa. «Ah, i ragazzi d'oggi!» sbuffava un'anziana signora. «Non so proprio dove arriveremo!» Un motociclista si fermò a scattare qualche foto. Intanto il poliziotto Smith aveva chiamato i pompieri, che arrivarono quasi subito sulla loro macchina rossa con una lunga scala. I pompieri impiegarono un'ora per liberare il povero Timothy dagli stivali e dalle lancette e portarlo giù. «Per colpa tua, ora l'orologio va indietro di 12 minuti! Non ti azzardare mai più a scalare il campanile, hai capito?» ruggiva il babbo e lo mandò difilato a letto senza cena. E gli stivali magici? Beh, rimasero nella grondaia del tetto della chiesa, dimenticati da tutti. Intanto, a 8 milioni di chilometri di distanza, nella profondità dello spazio, Capitano Argentato, il comandante del disco volante, si tirava le antenne dalla rabbia e diceva: «Oh, che guaio! Abbiamo dimenticato gli stivali magici sulla Terra! Presto, virate velocemente, torniamo giù!» Anche il poliziotto Smith, sulla terra, si ricordò degli stivali, appoggiò la bici al portone della chiesa e prese una scala. In quello stesso momento Timothy si alzava di scatto dal letto. Anche lui si era ricordato degli stivali magici. Fu davvero un momento emozionante. Dal disco volante sospeso sul tetto della chiesa scivolò giù una lunghissima corda d'acciaio con un uncino all'estremità per afferrare gli stivali. Intanto, in cima alla scala, il poliziotto era riuscito ad acchiappargli e dietro il muro di cinta Timothy seguiva a bocca aperta tutta l'operazione. Proprio mentre il poliziotto afferrava gli stivali, l'uncino che sporgeva dalla corda rimase impigliato nel collo della sua giacca. Capitano Argentato, sicuro di aver agganciato gli stivali, comandò: «Tirate su!» E il poliziotto Smith, con gli stivali in mano, venne lentamente sollevato in aria. A un chilometro circa di distanza dal villaggio, il poliziotto Smith lasciò cadere gli stivali, che per la seconda volta capitombolarono sulla terra. Capitano Argentato, accortosi dello sbaglio, non fu affatto contento. Avrebbe preferito 100 volte tirar su i suoi stivali. Inoltre era un po' preoccupato dello sguardo minaccioso del poliziotto. Quando poi quello tirò fuori il suo libricino per stendere il verbale contro il disco volante per atterraggio illegale, il capitano fu ancor più scontento. «Riportatelo indietro! Io ne ho abbastanza di questi terrestri impiccioni!» ordinò all'equipaggio. Quando la gente del villaggio si svegliò al mattino seguente, un insolito spettacolo si presentò ai loro occhi. L'orologio del campanile si era fermato del tutto e lì, aggrappato a una delle lancette, C'era il poliziotto Smith. La vecchia signora sbuffò. Che condotta indecente per un rappresentante della legge, eh? Non so proprio dove arriveremo. Il motociclista passò di lì e scattò delle nuove foto. E gli stivali magici? Dopo essere caduti di nuovo sulla terra, nessuno li vide più. Non sono caduti nella vostra strada, per caso, o nel vostro giardino. Se li trovaste, mi raccomando, fate attenzione e leggete le istruzioni prima di metterveli.